andare avanti, il buio fa pensare agli sbagli. Mentre parli mi dispiace, non ascolta. Hai creato questo mondo fin troppo contorto. Alcolista, anonimo magari, non fosse vero. Preso dall'alcol, chi sono, chi ero? Ero quel che ero, non lo facevo apposta. Basta, lo smetto ma ricado un'altra volta. Basta, finisci l'altrimenti poi sei fragile. Se, se, magari fosse facile. Non voglio raccontarti i problemi e gli impianti. Non voglio far la vittima, giuro per sfogarmi. Anni che non trovo allora la risposta. In cerca della verità ma è ben nascosta. In realtà so che volevi delle parole d'amore, ma in certe situazioni vedo solo depressione. Vivo come ho sempre fatto, sai. Vivo come non l'ho fatto mai. Non riesco a resistere a te. Uccidi lentamente me. Voglio ucciderti perché uccidi lentamente me. Muoio dentro e sento che possibile fu. Fantasia, potrò ancora volare con la musica, unica per il modo di fare. Non serve a nulla mascherare noi stessi, sempre noi, solo noi con i nostri difetti, che ci danno la forza di non essere fragili. Io corro, corro, ma ci sono troppi ostacoli.